GR Europa. Ultimo mese della presidenza italiana dell'Unione Europea che si apre all'insegna del passaggio di consegne oggi tra il nuovo presidente del Consiglio Europeo, il polacco Donald Tusk, e il suo predecessore, il belga Herman Van Rompuy. Un passaggio simbolico nelle leve di comando tra la vecchia e la nuova Europa. I am optimist because maybe all what Europe needs today. In un'intervista video ufficiale Tusk si è detto ottimista in vista della sfida che lo attende, anche se ha riconosciuto le difficoltà che vive il continente e ha drammatizzato un po' parlando del dovere di salvare la civiltà occidentale. Per l'Italia una settimana intensa, questa che si apre a Bruxelles con gli ultimi dossier da finalizzare prima di chiudere il semestre col varo del piano Juncker per gli investimenti a metà mese. Ben 5 vertici a partire dal Consiglio Salute oggi, che avrà in primo piano Ebola, ma non solo, in agenda anche i vaccini, tema quanto mai di attualità in questi giorni nella penisola. Ricco menù per il Consiglio Trasporti mercoledì, che dovrà sviluppare il cielo unico europeo e discuterà anche il quarto pacchetto ferroviario. Giovedì toccherà al Consiglio Competitività, che avrà in primo piano l'agenda per la semplificazione a favore delle imprese e il ruolo delle PMI. Sempre giovedì i ministri della giustizia si occuperanno della protezione dei dati personali insieme alla questione dei fallimenti transfrontalieri. Infine venerdì tocca ai ministri dell'interno, che faranno il punto sul rapporto Schengen. Altro tema in primo piano, il pericolo posto dai jihadisti di ritorno in Europa. Tornando a giovedì, massima attenzione sulla riunione del board BCE. Una mossa decisa sul quantitative easing appare forse prematura, ma quella ormai, come fatto intendere chiaramente da Mario Draghi, è la direzione. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.